Lo sport ha rappresentato fin dalle prime Olimpiadi dell'antica Grecia gli ideali di lealtà, di amicizia, di competizione e quindi di salute, di benessere. Infatti si diceva corpo sano, mente sana. E invece adesso lo sport praticamente è stato snaturato sotto tutti i suoi aspetti, perché è diventato un luogo dove si investono moltissimi soldi, dove c'è il doping, dove la pubblicità entra dappertutto e quindi praticamente è diventato il mercato dell'effimero, dove non ci sono ideali, non ci sono principi, non ci sono più valori. E quindi è tutto l'opposto di quello che invece è il modello americano dell'uomo forte, dell'uomo vincente, dell'uomo affascinante che fuma e ci vuole fare credere. E intanto per chi fuma fa male prima di tutto a se stesso, poi fa male a chi gli sta vicino, e determina un altissimo costo sociale perché per le cure delle malattie provocate dal fumo e in più foraggia le casse di queste grandi multinazionali che producono tabacco, che però danneggiano oltre alla salute delle persone, danneggiano anche i terreni, perché usano sostanze chimiche per coltivare il tabacco, provocano grandi disboscamenti per creare spazi per nuove coltivazioni, ma sfruttano anche i lavoratori e in certi casi, come ha verificato l'UNICEF, impiegano anche bambini nella produzione del tabacco. Insomma, vedere che Valentino Rossi sponsorizza una marca di sigarette, che la Ferrari è sponsorizzata dalla Marlboro, insomma, va contro tutti i principi dello sport. Ida Sconzo per Reporter Associati, Amnistnet Radio.